Ragazzi, abbiamo l'offerta delle patate. Abbiamo tarocco Sicilia, ragazzi, non c'è 2 euro. La roba bella è roba buona, tarocco per i soldi. Sai perché una cosa d'oro? Mamma mia, che roba che abbiamo oggi.